La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, buon sabato, buon cinema e per un'ora ne parleremo di cinema in questa settimana contrassegnata da ancora un numero abbastanza congruo di uscite, nove nuovi film nelle sale cinematografiche italiane, poi dalla prossima pian pianino si planerà, si diminuirà per quanto riguarda il numero con qualche chicca qua e là e soprattutto con l'avanzata dei festival estivi. Settimana che per quanto riguarda il box office, almeno per i primi giorni di programmazione dei nuovi film, vive ancora su quelli che erano già in sala, sul successo della Mummia che è diventato nel frattempo il quarto incasso, anzi scusate, del successo di Pirati dei Caraibi che è diventato il quarto incasso dell'anno 2017 dal primo gennaio per quanto concerne il box office italiano, e della Mummia invece che era il primo film negli incassi ancora di queste ultime giornate. L'unico film in grado di inserirsi fra quelli che sono usciti è Nerve, di cui parleremo fra poco, un film di, potremmo chiamarlo più che di fantascienza, di fantapresente, abbastanza realistico e inquietante. Però vogliamo cominciare la nostra carrellata, come sempre, a raccontarvi le principali uscite in sala con un classico, direi, non tanto del cinema quanto della letteratura, dell'arte, del teatro, della musica. Stiamo parlando della figura di Lady Macbeth. Penso che non vediate l'ora che vostro suocero torni a casa, signora Lester. E vostro marito. Non vedo l'ora. Non è buona cosa restare a lungo senza compagnia, credo. E i problemi di salute che di recente... Di salute? La vostra assenza dalla chiesa, signora. Sicuramente causata dalla loro assenza. Sicuramente. Forse dovreste passare più tempo in casa, signora Lester. So che siete uscita spesso ultimamente. Forse un po' più di solitudine e di riflessione gioverebbe. Mi intriga abbastanza questo film. C'era il tentativo di portare in chiave moderna, sebbene ambientato nel 1865 nell'Inghilterra di quegli anni, però di portare in chiave moderna in termini visivi un personaggio appunto che è un classico, è un'icona, è anche un personaggio archetipo quello di Lady Macbeth, no? La Lady velenosa, potremmo dire, e sicuramente la Dark Lady per eccellenza. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Allora, come funziona questo tentativo di restituirci una Lady Macbeth moderna e contemporanea, sebbene in costume? Beh, intrigante è esattamente la definizione migliore che potevi dare. Un po' perché intrigante è Lady Macbeth come personaggio, un po' proprio perché più del film, a mio parere, è interessante ogni singolo esperimento che è alla base del film. Cerco di spiegarmi. Da sempre nel cinema Shakespeare è una sorta di banco di prova, o per esordienti o per registi maturi, attori maturi, perché Shakespeare è un archetipo narrativo, stilistico, straordinario, è anche però un banco di prova estremamente difficoltoso. William Oldroyd, tra l'altro, cerca di portare avanti una sfida ancora maggiore. Di solito attualizzare Shakespeare lo si fa, come l'abbiamo visto spesso, portandolo nella modernità. Lui invece fa uno Shakespeare moderno lasciandolo lì dov'era. E questo è estremamente più difficile. È aiutato, secondo me, da un'attrice straordinaria, di Florence Pugh, ne sentiremo parlare moltissimo, ha una capacità incredibile di inserirsi all'interno dell'idea visiva del regista, che è quella di raccontare, insomma, in uno stile quasi fiammingo questo tipo di ambiente che vuole essere depressivo ma anche straordinariamente potente a livello di colori, di suoni, anche di movimenti. I momenti più passionali sono accompagnati da un vento che sembra entrare sotto la pelle dello spettatore. Sentendomi parlare così penserete a un capolavoro. Ecco, non lo è, perché Lady Macbeth ha anche questa particolarità. Uno, di prendersi delle libertà eccessive forse a livello narrativo, nel senso che in alcune premesse, soprattutto nel finale, c'è un grosso distacco da Shakespeare, eccessivo rispetto invece all'adesione che c'è magari in senso estetico ed etico. E due, perché le sfide del regista e dell'attrice sopravanzano il film. Cioè ci sono due grandi prove, l'attrice e il regista a livello visivo, che però a livello narrativo e anche, come avete un po' sentito, di dialogo, non riesce a reggere la sfida. Questo che cosa vuol dire? Che Lady Macbeth secondo me va visto, perché è un'opera molto intrigante e molto interessante, come avevi detto tu, che abbiamo di fronte due talenti che faranno parlare di sé nei prossimi anni, appunto il regista e l'attrice, e che però insomma si faranno, perché hanno ancora le spalle un po' strette, quello sì, perché diciamo che si sono un po' dimenticati il film seguendo se stessi. Mi annoio tanto, signora Lester. Forse dovresti dedicare più tempo al tuo lavoro. Tu non ti annoi, Catherine? Non chiamarmi Catherine. Vattene, vattene. Che cosa vuoi? Lady Macbeth, il primo film del quale ci siamo occupati nei cinema italiani. Un occhio al box office americano, giusto per dire due cose: che il film più visto ancora questa settimana è Wonder Woman, che ha avuto recensioni molto positive da quelle parti, e siamo a 205 milioni di dollari incassati dall'inizio dell'uscita. E poi invece che al terzo posto c'è Capitan Mutanda, questo mi andava proprio di dirlo, Captain Underpants, the first epic movie. E quindi per dirvi che i supereroi adesso, le mutande le hanno sempre indossate, insomma, basta ricordarsi anche Wonder Woman, voglio dire, no? È una Capitan Mutanda, se vogliamo, ma questo si intitola proprio così, e si è fatto i suoi 45 milioni di dollari fino adesso, quindi lo vedremo sicuramente nella prossima stagione nelle sale italiane. Viabilità, torniamo insieme fra poco per parlare appunto di quello che è il film forse più capace di andare in alto nel box office italiano in questo weekend. Stiamo parlando di Nerve. La rosa purpurea. Pretendono che tu vada sulla moto bendato. Sei pronta? Sì. Ricordati che sei i miei occhi. Ok, è verde. Tutto bene? Sì! Dammi le indicazioni. Non ce la faccio! Sta tranquilla, Vi. Che succede? Parlami. Il prossimo semaforo è verde. È scattato il rosso. Accelera! E allora avete sentito una delle scene più adrenaliniche, devo dire anche ben girate, di questo film, di questo Nerve, che è arrivato nelle sale cinematografiche italiane, si è subito inserito un po' nei quartieri alti del box office. È un film che prima ho definito di fantapresente distopico, potremmo dire, perché ormai è anche inutile parlare di fantascienza in questi casi, non lo è, non l'è mai stata ovviamente, ma insomma non si fa tanto riferimento al futuro quanto al presente, almeno per quanto concerne gli strumenti che vengono utilizzati nella narrazione, che sono strumenti, tutte tecnologie, tutte di uso quotidiano. Semplicemente oggi magari un utilizzo così non è fortunatamente così massiccio. Era successo con The Circle, per esempio, recentemente, che raccontava un social un po' particolare che piano piano prendeva la tua anima di chi ci lavorava dentro e ti faceva diventare un numero, un robot, un automa dentro un sistema. E qui con Nerve, tra l'altro, c'è stata una incredibile, come dire, concomitanza con la cronaca che parlava di questo fenomeno che qualcuno di voi avrà sentito, del Blue Whale, che poi è stato anche parzialmente ridimensionato da una serie di notizie, ma non è di questo che vogliamo parlare. Però si parla proprio di queste sfide che purtroppo invece esistono sui social, anche quelli, soprattutto quelli meno conosciuti, sfide che portano ad affrontare sempre un livello diverso, un gradino in più, per guadagnare punti, per guadagnare soldi, per guadagnare like, per guadagnare forse autocredibilità e autostima. È quello che succede in questa storia, in questo Nerve, dove questa ragazza tranquillissima, timida, magari non proprio un esempio, diciamo, di forza e di carisma, però una ragazza assolutamente a posto, senza grandi problemi, entra in questo giro tanto per darsi una scossa e per dimostrare che anche lei può fare, e comincia appunto da una piccola prima scommessa che gli viene proposta, quella di essere di baciare un ragazzo sconosciuto, e scopriremo subito che tanto sconosciuto non è, e poi con lui, avete sentito la scena della corsa in moto bendati, eccetera eccetera, escalation fino alle conseguenze che potrebbero essere le più drammatiche. Boris, di questo film mi sono piaciuti intanto il tempismo, perché ci ha messo in guardia su problemi che il giorno dopo trovavamo ai noi sul giornale, ma soprattutto mi è piaciuta la regia, cioè mi è piaciuto come questo film è girato, come immagina, come crea l'immaginario di questa storia, secondo me un po', come dire, stoppata, ammortizzata da un doppiaggio troppo accademico per una storia così di strada. È un film sicuramente con dei difetti, con dei momenti di poco credibilità e anche, fammi dire, con un finale francamente troppo conciliante rispetto a quella che è la storia che hai vissuto fino a quel momento, ma che non è privo comunque di alcuni spunti importanti. Sì, Nerve è un film interessante sicuramente, perché entra nel filone dei film adolescenziali, fanta-adolescenziali, penso a Hunger Games, penso forse ancora di più a Divergent, anche se sono in contesti distopici e futuri, e mentre, come tu hai giustamente notato, qui parliamo di presente, di un presente forse ancora più presente di quello che immaginavamo, perché caso ha voluto che mentre usciva il film qui in Italia scoppiasse lo scandalo, forse fake ma forse no, della Blue Whale, cioè questo gioco che attraverso internet può portare anche a conclusioni drammatiche per gli adolescenti che lo vivono. È vero che la regia è estremamente consapevole e anche ben fatta, nel senso di portare avanti una logica allo stesso tempo commerciale ma anche di narrazione serrata. Non sono male, anche se forse mancano un po' di carisma i due protagonisti. Emma Roberts in fondo è aiutata anche dalla scrittura del personaggio, che la vuole un po' imbranata, un po' insomma emarginata, un po' nerd, e poi piano piano, sfruttando la sua bellezza, anche diventa, sboccia in qualche modo, rappresenta la linea d'ombra dell'adolescenza e dell'adulta. Dall'altra parte c'è Dave Franco, che forse è persino più bello del fratello, ma che è un po' più lo stereotipo del ragazzo americano. Nulla di male, perché è un film commerciale, è un film che mira a fare botteghino, è un film che cerca chiaramente di diventare una saga, quindi diciamo industrialmente ha una sua collocazione precisa, ha il pregio di non essere particolarmente lungo, di tenersi sotto i 100 minuti, e come dicevi tu, tecnicamente Jost e Schulman riescono a dargli una personalità, riescono a dargli una visione. Quello che secondo me però manca a Nerve è il coraggio, nel senso mette in campo tantissime possibilità, un po' hai fatto bene a fare quel tipo di paragone, un po' come The Circle, cioè le premesse sono enormi, straordinarie, enormi, e parlano al presente in maniera incredibile. Si poteva anche sulla metafora agire con maggiore forza, con maggiore potenza, maggiore coraggio. Quindi narrativamente e visivamente il film fila, ma prendendosi delle responsabilità a livello di soggetto le avrebbe secondo me potute portare a un livello di cattiveria maggiore, a un livello di pericolo maggiore, a un livello di rischio anche cinematografico maggiore. Ecco, questo non avviene, e a mio parere il film così va man mano declinando, cioè quando lo stupore per la buona regia, il piacere delle immagini inizia a scemare, soprattutto quando iniziano a ripetersi, e quando deve arrivare lo sceneggiatore, deve arrivare magari a un livello diverso di coinvolgimento del personaggio, verso il finale, che è anche piuttosto deludente, il film va precipitando, ed è questo forse l'unico difetto, anche se sono convinto che per le comitive che si muovono il sabato sera Nerve sia un film assolutamente soddisfacente. Hai preso le mie cose, il portafoglio, i vestiti, non c'è più niente. No, si sono presi anche le mie. Ok, letteralmente, dice solo di uscire dal negozio, giusto? Allora, questa era Nerve, il film che appunto nei primi giorni ha meglio fatto al botteghino fra le nuove uscite. Adesso noi ci prendiamo al primo spazio per giocare insieme, come sempre, con le nostre tracce misteriose di film che noi seminiamo e che voi dovete riconoscere e indovinare, per provare a vincere il Blu-ray proprio di quel film. Ascoltiamo. Quando avete mangiato l'ultima volta? Ieri sera. Anch'io. Avete avuto esperienze stressanti? Questa conta? Per dire. Chi portavano all'elicottero sulla barella? E allora, prima traccia abbastanza misteriosa, dobbiamo dire. Se però avete già intuito, indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpure, a @radio24.it, col titolo del film e il vostro indirizzo, per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Boris, ti volevo chiedere una cosa. Quando ho visto questa locandina con Keanu Reeves e René Zellweger, mi è sembrato di essere ripiombato indietro di 10-15 anni, quando questi due attori erano, insomma, come dire, no? Sicuramente nei primi 5 degli uomini, nei primi 5 delle donne del cinema mondiale. Se Keanu Reeves comunque ha continuato con qualche titolo che ricordiamo anche in tempi recenti, di René Zellweger si erano un po' perse le tracce. Stiamo parlando di una doppia verità. Allora ascoltiamo prima questa clip e poi ne parliamo. Presto, venga. È mio marito. Lui chi è? Michael, nostro figlio. Che ha fatto per prima cosa? Ho controllato se fosse morto. Lo era. C'è nessuno? Loretta? Ho chiamato l'avvocato, vado io. Andava fatto tanto tempo fa. Cosa ha detto Mike? Sempre si è detto qualcosa. Dovevo farlo tanto tempo fa. Obiezione, vostro onore. Obiezione vostro onore ci porta già in un ambiente che è quello del legal thriller. Un ragazzo sorpreso sulla scena del crimine, vicino al corpo di suo padre morto, e per di più con un coltello insanguinato in mano. Insomma, diciamo che non è che mette benissimo per questo ragazzo. Chiaramente la storia è quella di un processo che dovrà stabilirne la verità, anzi una doppia verità, come recita il titolo. Boris, 2 minuti per promuovere o bocciare questo film. Anche qui è difficile, perché come in Nerva secondo me ci troviamo di fronte a una doppia sfida, una vinta e una drammaticamente persa. Intanto sono d'accordo con te che rivedere Keanu Reeves e René Zellweger dopo tanti anni essere sostanzialmente delle riserve di lusso, dopo che hanno deciso attraverso i loro cachet le sorti di Hollywood, fa sorridere. Però sono bravi, cioè riescono a trovare il talento che ultimamente avevano dimenticato attraverso gigionerie varie, e portano avanti un film che è un legal thriller, perché Keanu Reeves è un avvocato anche un po' indisciplinato che si trova a dover difendere il figlio forse parricida di un collega che a sua volta al figlio e a lui ha comunque insegnato molti dei trucchi del mestiere. E quindi cosa c'è di più interessante di un film che da una parte propone forse un doppio Edipo e dall'altra riesce a portare avanti in maniera anche dignitosa uno dei generi più di successo del cinema, che è appunto il legal thriller, soprattutto quando diventa, dai tempi della parola giurata in poi, una metafora di ben altro. Ed è brava anche la regista, perché per lungo tempo sa suscitare l'interesse e il desiderio dello spettatore. Questo perché? Perché l'imputato non parla, perché l'avvocato è costretto a improvvisare, e come improvvisa? Decidendo di portare all'esasperazione la giuria popolare, che è una soluzione sostanzialmente molto originale rispetto al passato, perché in qualche modo gioca contro apparentemente il suo imputato per creare l'ansia di un possibile capovolgimento, ed è bravissimo a farlo anche con il pubblico. Questo qual è il problema? È che quando tu crei un'ansia così grande, poi il colpo di scena finale deve essere geniale, lo insegna Bryan Singer, lo insegnano i soliti sospetti. E invece a un certo punto, quando capisci che il povero Mike diventerà protagonista non più muto, quando capisci che sta arrivando un colpo di scena troppo telefonato, ti renderai conto che tutto questo desiderio viene soddisfatto però da qualcosa di decisamente deludente. E quindi la sensazione che hai uscendo dal film è di questo doppio film: uno che ti ha fatto desiderare moltissimo e l'altro che ti ha deluso moltissimo, e purtroppo, come sappiamo, il sapore della delusione è più forte di quello del desiderio. Una doppia verità, quindi, è anche un doppio esito, un doppio commento per questo film. Adesso linea alla regia, fra poco ci occupiamo di quello che per me è assolutamente invece il film della settimana. Si intitola Corniche Kennedy. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea prosegue con Corniche Kennedy, come dicevamo, film di Dominique Cabrera, con un cast di giovanissimi attori francesi di origini spesso magrebine, perché questa è la storia che racconta questo film, ambientato a Marsiglia. La Corniche Kennedy è sostanzialmente una sorta di lungomare, diciamo, di Marsiglia, che affaccia costantemente, appunto, a strapiombo, tra l'altro, sul mare, e dalla quale questa pattuglia di ragazzi, più o meno diciamo adolescenti, tardo adolescenti potremmo dire, 16, 18, 19 anni, si buttano in mare, passano le loro giornate così. Sono figli di immigrati di seconda generazione, sono appunto ragazzi della periferia, della banlieue, che passano le loro giornate estive buttandosi in sfide di coraggio sempre complessive e anche sempre più forti da questa Corniche Kennedy. Una ragazza della Marsiglia Bene li vede, li fotografa, li guarda da lontano, entra in contatto, anzi in collisione con loro, ma a un certo punto l'innamoramento per questa scarica di adrenalina è così, così tanto, così grosso, che si unisce a loro e comincia a saltare, a prendere coraggio e forse anche un po' a trovare se stessa, ma trova se stessa in un contesto che chiaramente è irto di difficoltà e di pericoli. Sentiamo questa clip in francese, in lingua originale, e poi ne parliamo. Franchement parfait. La viande elle est succulente. Tiens, sourire, frère. Tu nous as mis bien. C'est bon. En plus, on va faire le coup du siècle là-bas. Fumigène, halal. Si parla di colpo del secolo, stanno mangiando al ristorante, questi ragazzi stanno studiando come uscire da una cosa che non vi diciamo per non spoilerare, ma insomma che potrebbe dare un senso a quelle giornate estive. Marsiglia è assolutamente protagonista di questo film, così come lo è il caldo, come lo è questa Corniche, come lo è questo gruppo di ragazze. Alle spalle c'è un romanzo di Maïli de Kerengal, ma c'è anche, devo dire, una bella scelta di regia di Dominique Cabrera, che riesce a stare addosso a sti ragazzi, a cercare di empatizzare con loro senza però per forza mettersi dalla loro parte, nel senso di giustificare o scusare ogni loro gesto. È tutto molto chiaro nel film quali sono le direzioni che i ragazzi prendono e quali sono le responsabilità che la società ha alle spalle di questi eventi. Boris, Corniche Kennedy, come puoi aver immaginato, mi ha veramente convinto. Ti è piaciuto? Mi ha convinto tantissimo anche a me, da una parte perché Dominique Cabrera, secondo me, è una regista eccezionale nella capacità di entrare all'interno delle storie, di provare empatia senza, come dicevi tu giustamente, giustificare. Ma tu non puoi fare a meno di fare la stessa scelta che fa la protagonista, tra l'altro una straordinaria Laura Creton, che non ha ancora avuto, secondo me, abbastanza dal cinema come avrebbe meritato. E a un certo punto tu ti devi buttare con i protagonisti perché senti che quella è la tua strada, loro ti attirano. Lei ha sempre raccontato questo tessuto sociale popolare dei pieds noirs, dei piedi neri, che così venivano chiamati in maniera dispregiativa negli anni 70 i francesi d'Algeria, quindi non gli algerini, ma erano i francesi che tornavano dall'Algeria. E c'è poi una capacità però di lavorare anche sulle immagini, sui suoni e sui corpi che è pazzesco. Quindi difficilmente tu trovi nel cinema moderno, ma in generale nel cinema, un cinema così capace di lavorare su ciò che è tangibile e allo stesso tempo di fare cinema politico. Perché di questo parliamo. Forse si poteva fare solo a Marsiglia questo film, perché Marsiglia è l'unica città francese che riesce ad essere viva come una città del sud, carnale come una città del sud, e allo stesso tempo però anche intellettuale, anche profondamente contraddittoria e complessa. E lei riesce a riassumere tutto attraverso questi rischiosissimi tuffi, questa costante lotta contro la morte, che poi però diventa vita appena si tocca l'acqua, perché appena entrano in acqua si toccano, toccano la natura, a un certo punto compare anche un polpo e loro lo accarezzano, cioè c'è un contatto estremamente carnale tra di loro, pur non essendoci nulla di malizioso. Ecco, questo continuo dialogo tra ciò che è altissimo e ciò che è alla nostra portata, che è il respiro, che è corpo, è l'eterno dialogo che c'è all'interno di Corniche Kennedy, che racconta anche poi una realtà vera sociale, che è quella dei trafficanti di droga, che è quella dell'emarginazione anche razziale, di tutto un mondo che non può andare oltre, addirittura di una poliziotta che probabilmente perché nera riesce a capirli, ma che altrimenti se no li lascerebbe ben oltre quel binocolo che guarda. Il tutto è davvero un quadro di, a mio parere, straordinaria potenza e allo stesso tempo poesia. Ecco, queste due cose normalmente non le troviamo in un film, ma le troviamo spesso nei film di Dominic Cabrera. Assolutamente, hai detto bene. Anche un film di gente che guarda gli altri, questo, con la ragazza protagonista che guarda i tuffatori, con la poliziotta che si limita a osservare, ma a un certo punto questi sguardi devono diventare appartenenza, azione, ed è quello che succede, tra l'altro in un clima, ripeto, che è un clima raro da trovare in un film, anche proprio a livello visivo e di fotografia. Quindi assolutamente consigliabile questo Cornish Kennedy, andatevelo a cercare nei cinema, nelle sale, nelle città dove c'è, sono tante, però sono soprattutto le più grandi. Allora, andiamo avanti con la seconda traccia del film misterioso. Che succede? Ehi, che stai facendo? Sto bene. È pericoloso, sei impazzita. Devono vedermi. Non può togliere, può essere nella tuta. Si sta togliendo la tuta. Fermi, passo. Lo può fare. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, c'è una tuta da togliere, potrebbe essere mille cose. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano e che fra poco sveleremo. Il titolo lo sveleremo, ovviamente, lo saprete prima della fine della nostra puntata. Adesso andiamo a Parigi, anzi facciamo attendere Parigi, perché come recita il titolo del film di Eleanor Coppola, Parigi può attendere, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti, che ha anche intervistato la regista. Stai bene? Sì, sto bene, solo che l'orecchio mi... Penso che dovrei rinunciare a Budapest e andare direttamente a Parigi. Io sto tornando a Parigi, posso darle un passaggio? Davvero molto gentile, per te va bene? Allora, diciamo che non sappiamo dove stiamo andando e neppure chi siamo. Oh mio Dio. Guidare è il solo modo per conoscere un paese. Dove sei? Sto andando a Parigi con uno dei soci di tuo padre. Voilà. Escargot. Jacques accompagna la moglie del socio alla scoperta di paesaggi, musei e tavole imbandite. Ci vorrebbero poche ore, serviranno giorni per arrivare a Parigi, ma si sa, quel che conta è il viaggio. Il paese ovviamente è la Francia, la protagonista Diane Lane e il marito Alec Baldwin, il francese Arnaud Fiar. Ma al posto dei primi due nomi si possono mettere quelli di Eleanor e Francis Ford Coppola, perché la storia che vede la moglie del regista dietro la macchina da presa ha spunto autobiografico, oltre che cliché su francesi e americani abbondanti. Allora, com'è Parigi? Non ci sono ancora arrivata, Jacques ha voluto fermarsi per la notte. Lui cosa? Santé. Non dimenticarlo, è un francese. Stereotipi da fiction, assenti nei bei documentari fatti negli anni dalla signora ormai 81enne, su tutti quello sulla lavorazione di Apocalypse Now. Ma Eleanor Coppola aveva già pensato in passato a un film di finzione? No, I never ever thought of myself making a fiction feature, because my nature is to be an observer and kind of quiet and behind the scenes and the documentary is a format that just... Non avevo mai pensato di fare un film di finzione. La mia natura è quella di osservare, di stare dietro le quinte. Il documentario è la forma che meglio si adatta alla mia personalità. Non avevo mai pensato a un film. Non so cosa è successo. Quando ormai avevo 75 anni, ho avuto il bisogno di fare questo film. È stato difficile mettere insieme anche i soldi. Sono andata avanti quando mi hanno detto di no. Alla mia età si è ormai senza paura. Se faccio un film, mi sono detta, non è che parte una carriera. Se va male, non è che finisce la mia vita. Alla fine sono stata contenta di averlo fatto. If I make a feature, it's not going to change my... I'm not going to start my career. If it's a failure, it's not going to end my life. You know, so I just kind of kept to it, and I was very glad to finally be able to make it. Cosa ha utilizzato di più? Quanto imparato da documentarista o quello appreso negli anni sul set con suo marito e i suoi figli? Well, probably a little bit of everything. You draw from your life experience, but I think the Un po' tutto quello che viene dalla mia esperienza di vita. La maggiore influenza però penso che sia stata mia figlia Sofia con il suo Lost in Translation. Ho visto che ha preso parte della sua esperienza di vita e l'ha trasformata in un film di fiction. Non era un libro, non erano altre fonti. Quando ho avuto anche io un'esperienza da portare in un film, l'ho fatta. I could just take my life experience and embroider on it or fictionalize it. Nulla in comune con i film di Francis Ford Coppola. My husband's films are very strong and I film di mio marito sono forti e straordinari. Non sono però il tipo di film che avrei mai potuto fare. Non volevo fare un film come li fa lui. Ovviamente li ammiro, ma penso che sia stata la voce di mia figlia, una voce femminile. Il punto di vista di una donna a farmi fare il film come l'ho fatto. Eleanor Coppola, la Rosa Purpurea, Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Parigi può attendere. Viabilità adesso, torniamo, c'è un altro film di cui dobbiamo parlare in questa settimana, Aspettando il Re, è un'altra delle uscite con nomi importanti di questo weekend, Aspettando il Re con Tom Hanks, fra poco qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Oggi il re non potrà venire. È impegnato a Jeddah. È nello Yemen. E a New York. Il re è da un po' che non si vede. Un po' quanto? Sono 18 mesi che lo aspetto, ma ancora niente. Oh! Tutto a posto? Oh, sì, grazie. Non so ancora quando rientrerò negli Stati Uniti. Rimando di giorno in giorno. Aspettando il re, avete sentito, un'attesa infinita, aspettando il re, quella per Tom Hanks in questo film nel quale si racconta una storia di attese, di incontri e di scoperte, potremmo dire. La storia di un uomo, appunto Tom Hanks, un uomo d'affari americano che non se la passa benissimo e che viene spedito proprio in Arabia Saudita dalla società informatica per cui lavora per cercare di vendere al re dell'Arabia Saudita un sistema di teleconferenze del futuro, potremmo dire, con tecnologie tridimensionali olografiche per una città avveniristica che stanno costruendo nel deserto. Avete presente queste città che viste dall'alto hanno delle forme strane, eccetera? Ecco, solo che quando lui arriva gli si rende conto che la città è molto molto indietro, è un cantiere, che diciamo la manodopera che ci sta lavorando non è proprio il massimo e che soprattutto il re è assente da molti mesi. Questa è un po' la storia, la trama anche interessante di questo film, che ha appunto un nome assoluto in locandina. Tom Hanks ha in regia Tom Tykwer, che è diventato dai tempi di Lola Corre assolutamente regista mainstream. Boris, quali sono le caratteristiche del film e soprattutto vale la pena andarlo a vedere? A mio parere vale la pena andarlo a vedere perché, e non solo per Tom Hanks, che diciamo faccio fatica a ricordare un film brutto da non andare a vedere, magari ha fatto film medi, alcune volte mediocri, ma bidoni Tom Hanks non ne ha mai dati, forse anche quella faccia rassicurante, e potrei dire anche Tom Tykwer forse non ha mai fatto il suo capolavoro, ma è uno che porta a casa sempre la bagnotta con estrema dignità. Aspettando il re, secondo me, è un film che ha un suo fascino, rovinato in parte dalla storia d'amore, che è la cosa meno convincente e che ha troppo visibilità, forse nel disegno produttivo statunitense bisogna rivedere un po' gli ingredienti del successo sicuro, in questo caso quello più banale è anche quello che riesce di meno, perché la storia d'amore è una sorta di contraltare consolatorio e piuttosto superficiale di tutto il resto. È molto più interessante invece il personaggio a metà tra i soliti ignoti e l'esploratore di se stesso, un uomo in crisi, che è Tom Hanks, che va in Arabia Saudita portando nella sua valigetta molto piccola un progetto avveniristico. Ovviamente non vuole vendere il Colosseo agli americani, ma vuole vendere degli ologrammi ai sauditi, e non è troppo diverso, e in qualche modo su quella faccia, come spesso ha fatto, disegna il fallimento del sogno americano, la crisi dell'American Way of Life. Chi vuole farcela non può più stare in America per farcela, ma deve andare in Arabia Saudita, e questo in tempi in cui anche Trump va a chiudere contratti in Arabia Saudita non è male, soprattutto perché non potevano immaginarlo. Il tutto in, in un'ambientazione e in un profumo, in un'atmosfera che è a metà tra la commedia e invece il dramma personale, senza mai arrivare a toni tragici e senza nemmeno arrivare a toni comici, quindi con una misura di racconto e visiva molto molto interessante, e con un Tom Hanks che secondo me riprende il talento di qualche anno fa, che era stato un po' offuscato negli ultimi anni da delle recitazioni a mio parere piuttosto stanche, non brutte ma decisamente stanche. Alla fine, Aspettando il Re, secondo me è un'ottima opera, anche contando che la vediamo il 15 di giugno, che è già una stagione in cui si dà fondo ai magazzini, e qui invece ci ritroviamo con un'opera che non sarà quella della settimana, ma che comunque può fartela passare bene la settimana. Ma da dove mi chiami? Dalla Luna? No, sono in Arabia Saudita, papà. Sto provando a vendere a Re un sistema di teleconferenza olografico tridimensionale. Lei è l'autista? Autista, guida, eroe. Quella è la moschea che vedo dal mio balcone. Sì, è lì che fanno le esecuzioni. Torno indietro e andiamo a dare un'occhiata? No. No! Ed è il film Aspettando il Re che chiude la nostra carrellata sulle novità in sala di questa settimana. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora andiamo avanti, perché abbiamo ancora spazio per parlare del cinema da vedere in casa, cominciando con il riascoltare una traccia di quelle misteriose di 7 giorni fa. E poi, se sono americani, li promuovo con grande impegno, li accolgo anche se sono straniere. L'essenziale è che siano i migliori. E si trattava di Jackie, il film di Pablo Larraín, che è interpretato da una straordinaria Natalie Portman, ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia della la scorsa edizione. E allora Jackie in Blu-ray è stato indovinato per primi, e quindi vinto, da Valentina Gabriele di Latina e Salvatore Lofino di Trieste. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Jackie, che ci facciamo raccontare così dagli amici di Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in home video l'ultimo film di uno degli autori più significativi del cinema di oggi, il cileno Pablo Larraín, che dopo aver reinventato il genere biografico con il suo esaltante Neruda sbarca in America e affronta la storia dal punto di vista particolare e privilegiato di uno dei personaggi secondari veramente fuori dall'ordinario della storia americana, ovvero Jackie Onassis, ovvero la vedova Kennedy, interpretata da una meravigliosa Natalie Portman. Esce un film che, come sempre in Larraín, è uno scorcio sulle dinamiche del potere, una sorta di ritratto rifratto in tantissimi specchi sfaccettato di una donna, e un saggetto su quello che separa il vero e il falso, la storia e la leggenda, subito dopo l'omicidio di JFK. Blu-ray buono, con extra pochi ma anche qui buoni, making of e intervista Natalie Portman, la protagonista. Giulio, diamo un'occhiata anche alle segnalazioni dai palinsesti televisivi, cominciando con un grande classico, forse il capolavoro di Lars von Trier, Dogville, che va in onda martedì 20 giugno su Iris all'1:35 di notte. Dogville è la città dei cani, è l'esatto opposto di Godville, la città di Dio, perché Dogville, anche se arriva un personaggio che si chiama Grace come la grazia, inerme solamente veramente da aiutare, si finisce per sfruttarla, umiliarla, violentarla, fino alla vendetta poi di un Dio che è veramente veramente profano. Lars von Trier gira in un capannone la sua piccola città americana, le case sono disegnate a terra e bisogna immaginarle, i muri non esistono. È come a dire che, insomma, Dogville tutti, noi compresi, vedono tutto, solo che bisogna fare per forza finta di non vedere. È un grandissimo film del regista danese, uno degli enfants terribles del cinema di oggi, con Nicole Kidman in un ruolo veramente martirologico che la segnò decisamente, ma che rimane uno dei ruoli migliori della sua carriera. Un film paradossale, spietato e veramente imperdibile. È uno dei film meno conosciuti forse del periodo recente di Bernardo Bertolucci, si intitola L'assedio, lo possiamo rivedere mercoledì 21 giugno su Iris sempre alle 3:10 del mattino. Siamo a Roma, in Piazza di Spagna, siamo in una casa e ci sono due persone. Lui è un ricco musicista inglese e lei è una studentessa africana che gli fa da domestica e di cui lui si innamora perdutamente. Per dimostrarlo fa una cosa veramente eccentrica e molto potente, per dimostrare il suo amore si libera di ogni bene e al fine di liberare il marito di lei che è incarcerato in Africa per le sue idee progressiste. Bernardo Bertolucci è qui in uno dei suoi film intimisti, ma è difficile che lui riesca a essere minimale perché è sempre massimalista, è capace di fare grande cinema anche in uno spazio minuto con pochi personaggi ed è capace di esaltare con continue invenzioni visive una storia piccola e grande come l'amore. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, come ci dicono le note della nostra sigla, non mi resta solo che svelare il film misterioso di oggi. Si trattava di Arrival, uno dei film di fantascienza che ha contrassegnato la stagione che si sta concludendo. I vincitori la prossima settimana con un'altra ora di cinema qui su Radio 24 alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.